Le arti, proseguì Lelia, l'industria e la scienza, l'intera impalcatura della civiltà, cos'è se non il continuo sforzo della debolezza umana per nascondere i suoi mali e coprire la sua miseria? Guarda se, nonostante le sue profusioni e voluttà, il lusso può creare in noi nuovi sensi o perfezionare il sistema organico del corpo umano. Guarda se lo sviluppo esagerato della ragione umana porta all'applicazione della teoria alla pratica. Se lo studio ha spinto la scienza oltre certi limiti invalicabili, se la mostruosa eccitazione del sentimento è riuscita a produrre piaceri completi. No, è dubbio che i progressi compiuti da 60 secoli di ricerca abbiano portato l'esistenza dell'essere umano al punto di essere sopportabile e di eliminare la necessità del suicidio per molte persone. Non ho cercato di dimostrarti, Lelia, che l'uomo ha raggiunto il suo apice di potenza e grandezza. Al contrario, ti ho detto che a mio parere la razza umana ha ancora molte generazioni da percorrere prima di raggiungere quel punto e forse ci rimarrà per molti secoli prima di scendere allo stato di decrepitezza in cui tu ora credi che si trovi. Come puoi credere, giovanotto, che stiamo seguendo un corso progressivo quando vedi intorno a te tutte le convinzioni perdersi, tutte le società agitarsi nei loro legami allentati, tutte le facoltà esaurirsi a causa dell'abuso della vita, tutti i principi un tempo sacri divenire oggetto di discussione e servire da gioco per i bambini, come gli stracci della regalità e del clero sono serviti da maschera per il popolo, re e sacerdote a pieno titolo. Sai bene, Lelia, che in tutti i tempi i troni hanno vacillato su fondamenta fragili. Questo spirito di libertà, che si dice stia prendendo piede nei nuovi popoli, non è un'improvvisazione così rapida che non abbiamo avuto il tempo di leggere come i popoli antichi organizzavano il loro sistema di repubblica. Tutto nelle nostre rivoluzioni ha il carattere dell'imitazione infantile e del misero plagio. La lotta tra poveri e ricchi non è forse iniziata il giorno in cui è cessata quella tra forti e deboli? L'istituzione del diritto di successione non è forse antica quanto quella del diritto di conquista? Era solo ieri che combattevamo per il suolo che ci ospita. Sì, disse Lelia, ma dopo queste guerre tra uomini, dopo questi sconvolgimenti di società, il mondo ancora giovane e vigoroso stava risorgendo e ricostruendo il suo edificio per un nuovo pugno di secoli. Questo non accadrà più. Non siamo, come tu credi, solo in uno di quei postumi della crisi in cui lo spirito umano stanco si addormenta sul campo di battaglia prima di imbracciare le armi della liberazione. A forza di cadere e di rialzarsi, a forza di sdraiarsi su un fianco e di aggrapparsi alla speranza e di vedere le sue ferite riaprirsi e richiudersi, a forza di agitarsi nelle sue catene e di essere rauco per aver gridato al cielo, anche il vecchio colosso si affloscia. Ora sta barcollando come una rovina che crollerà per sempre, ancora poche ore di agonia convulsa, e il vento dell'eternità passerà indifferente su un caos di nazioni sfrenate, ridotte a lottare sulle macerie di un mondo logoro che non basterà più ai loro bisogni. Tu credi nell'avvicinarsi del giudizio universale? Oh, mia triste Lelia. È la tua anima oscura che dà vita a questi immensi terrori perché è troppo vasta per le superstizioni minori. Ma in tutti i tempi la mente dell'uomo si è preoccupata di tutte queste idee di morte. Le anime ascetiche si sono sempre abbandonate a queste contemplazioni sinistre, a queste immagini di cataclisma e di desolazione universale. Non sei una nuova profeta, Lelia. Geremia è venuto prima di te e la tua poesia rabbiosa e dantesca non ha creato nulla di così cupo come l'Apocalisse, cantata nelle notti deliranti di un pazzo sublime sulle rocce di Patmos. Lo so, ma la voce di Giovanni, il sognatore, il poeta, è stata ascoltata e raccolta. Ha spaventato il mondo e per quanto sembrasse incomprensibile, ha richiamato alla fede cristiana un gran numero di intelligenze mediocri che la sublimità dei precetti evangelici non era riuscita a toccare. Gesù aveva aperto il cielo agli spiritualisti, Giovanni ha aperto l'inferno e ha portato la morte su un cavallo pallido, il dispotismo con una spada insanguinata, la guerra e la carestia al galoppo su un cavallo scheletrico per spaventare il volgo che aveva sopportato tranquillamente i flagelli dell'umanità e che se ne spaventava non appena li vedeva personificati in una forma pagana. Ma oggi i profeti gridano nel deserto. E nessuna voce risponde loro, perché il mondo è indifferente, è sordo, si sdraia e si copre le orecchie per morire in pace. Invano alcuni gruppi sparsi di settari impotenti cercano di riaccendere una scintilla di virtù, ultimi resti del potere morale dell'uomo galleggeranno per un attimo sull'abisso e si uniranno agli altri detriti in fondo a questo mare senza sponde dove il mondo deve tornare. Oh, perché dobbiamo disperare così, Lelia, di quegli uomini sublimi che aspirano a riportare la virtù nella nostra età del ferro? Se dubitassi, come lei, del loro successo, non vorrei dirlo, avrei paura di commettere un crimine empio. Ammiro questi esseri, rispose Lelia, e vorrei essere l'ultima di loro. Ma cosa potranno fare questi pastori che portano una stella sulla fronte davanti al grande mostro dell'Apocalisse? Davanti a quella figura immensa e terribile che è in primo piano in tutti i quadri del profeta. Questa donna pallida e bella come il vizio, questa grande prostituta delle nazioni, ricoperta dalle ricchezze dell'Oriente e a cavallo di un'idra che vomita fiumi di veleno su tutti i sentieri umani, è la civiltà, è l'umanità depravata dal lusso e dalla scienza, è il torrente di veleno che inghiottirà ogni parola di virtù e ogni speranza di rigenerazione. Lelia, gridò il poeta superstizioso, non sei tu quel fantasma infelice e terribile. Quante volte questa paura mi ha colto in sogno. Quante volte mi sei apparsa come un tipo di sofferenza indicibile in cui lo spirito di ricerca ha gettato l'uomo. Non personifichi forse con la tua bellezza e la tua tristezza, con il tuo ennui e il tuo scetticismo, l'eccesso di dolore prodotto dall'abuso del pensiero. Questa forza morale, così sviluppata dall'esercizio dell'arte, della poesia e della scienza, non è forse stata consegnata e, per così dire, prostituita a tutte le impressioni, a tutti i nuovi errori? Invece di aggrapparti, fedele e prudente, alla fede semplice dei tuoi progenitori e all'istintiva spensieratezza che il divino ha posto nell'essere umano per il suo riposo e per la sua conversazione, invece di chiederti di chiuderti in una vita religiosa senza sfarzo, ti sei abbandonata alle seduzioni di una filosofia ambiziosa, ti sei gettata nel torrente della civiltà che stava nascendo per distruggere e che per aver corso troppo ha rovinato le fondamenta appena gettate del futuro. E poiché hai ritardato di qualche giorno il lavoro dei secoli, credi di aver rotto la clessidra dell'eternità. C'è orgoglio in questo dolore, Lelia. Ma il divino lascerà passare questa tempestosa alluvione di secoli che per lui non è che una goccia d'acqua nel mare. L'idra divoratrice morirà per mancanza di cibo e dal suo cadavere, che ricoprirà il mondo, nascerà una nuova razza più forte e paziente della precedente. Vedi lontano, Stenio. Tu personifichi per me la natura di cui sei figlio virginale. Non hai ancora spento le tue facoltà. Ti credi immortale perché ti senti giovane, come questa valle incolta che fiorisce bella e orgogliosa, senza pensare che in un solo giorno il vomere e il mostro dalle 100 braccia chiamato Industria possono inaridire il suo seno per rubare i suoi tesori. Cresci fiducioso e presuntuoso senza prevedere la vita che sta arrivando e che ti inghiottirà sotto il peso dei suoi errori per sfigurarti sotto il trucco delle sue promesse. Aspetta, aspetta qualche anno e dirai come me, tutto sta scomparendo. No, non è tutto da buttare, dice Stenio. Guarda questo sole e questa terra e questo bel cielo e queste verdi colline, questo stesso ghiaccio. Il fragile edificio degli inverni che ha resistito per secoli ai raggi dell'estate, così prevarrà il fragile potere dell'uomo. E cosa importa se qualche generazione cade? Piangi per così poco, Lelia. Pensi che sia possibile che una sola idea muoia nell'universo? Questo patrimonio imperituro non si troverà forse intatto nella polvere delle nostre razze estinte, così come le ispirazioni dell'arte e le scoperte della scienza emergono ogni giorno vive dalle ceneri di Pompei o dai sepolcri di Memphis. Oh, la grande ed eclatante prova dell'immortalità intellettuale! Misteri profondi si erano persi nella notte dei tempi. Il mondo aveva dimenticato la sua età e, credendosi ancora giovane, aveva paura di sentirsi già così vecchio. Disse: come fai tu, Lelia? Sono vicino alla fine perché sto diventando sempre più debole e sono nato da così pochi giorni. Quanto poco mi servirà per morire, visto che è bastato così poco per farmi vivere. Ma un giorno vengono riesumati i cadaveri umani dal seno dell'Egitto, quell'Egitto che aveva vissuto la sua epoca di civiltà e che ha appena vissuto la sua epoca di barbarie. Egitto dove l'antica luce da tempo perduta si sta riaccendendo e che, riposata e ringiovanita, forse verrà presto a sedersi sulla nostra fiaccola spenta. L'Egitto, l'immagine vivente delle sue mummie che hanno dormito nella polvere dei secoli e che si stanno risvegliando nel grande giorno della scienza per rivelare al nuovo mondo l'età del mondo antico. Dimmi, Lelia, non è forse solenne e terribile? Nelle viscere essiccate di un cadavere umano, l'occhio curioso del nostro secolo scopre il papiro, monumento misterioso e sacro dell'eterno potere dell'uomo, testimonianza ancora oscura ma indiscutibile dell'imponente durata della creazione. La nostra mano ansiosa srotola queste strisce imbalsamate, sudari fragili e indissolubili davanti ai quali la distruzione si è fermata. Questi sudari in cui l'uomo è stato sepolto, questi manoscritti che giacciono sotto costole e maciate al posto di quella che forse era un'anima, sono il pensiero umano, enunciato dalla scienza dei numeri e trasmesso con l'aiuto di un'arte perduta per noi e ritrovata nelle tombe d'Oriente, l'arte di disputare i resti dei morti con gli oltraggi della corruzione, che è il più grande potere dell'universo. Oh Lelia! Neghi allora la giovinezza del mondo, vedendola fermarsi ignorante e ingenua davanti alle lezioni del passato e cominciare a vivere sulle rovine dimenticate di un mondo sconosciuto? Sapere è non poterlo fare, risponde Lelia. Imparare non significa progredire, vedere non significa vivere. Chi ci restituirà il potere di agire e soprattutto l'arte di godere e conservare? Siamo andati troppo avanti per tornare indietro. Ciò che era riposo per le civiltà eclissate sarà morte per la nostra civiltà esausta. Le nazioni ringiovanite dell'Oriente verranno a ubriacarsi del veleno che abbiamo sparso sul nostro suolo. I bevitori incalliti, gli uomini della barbarie, forse prolungheranno l'orgia del lusso per qualche ora nella notte dei tempi, ma il veleno che lasceremo loro in eredità sarà prontamente fatale per loro come per noi, e tutti ripiomberanno nelle tenebre. Non vedi, Stenio, che il sole si sta allontanando da noi. La terra, stanca nella sua marcescenza, non va forse alla deriva verso l'ombra e il caos? Il tuo sangue è così ardente e così giovane da non sentire gli effetti del freddo che si stende come un manto di lutto su questo pianeta abbandonato al fato, il più potente di tutti gli dei? Oh, il freddo, questo male penetrante che spinge e agita gli enti in ogni poro, questo alito maledetto che inaridisce i fiori e li brucia come fuoco, questo male fisico e morale che invade l'anima e il corpo, che penetra nelle profondità del pensiero e paralizza la mente e il sangue, il freddo, quel demone sinistro che rade l'universo con la sua ala umida e soffia la peste sulle nazioni sgomente. Il freddo che tutto opacizza, che stende il suo velo grigio e nebuloso sui ricchi colori del cielo, sui riflessi dell'acqua, sul seno dei fiori, sulle guance delle vergini. Il freddo che getta il suo bianco sudario sui prati, sui boschi, sui laghi e persino sul pelo, persino sul piumaggio degli animali. Il freddo che scolora tutto nel mondo materiale come in quello intellettuale. Il manto della lepre e dell'orso sulle rive dell'arcangelo, i piaceri dell'uomo e il carattere della sua morale nei luoghi a cui si avvicina, si vede che tutto si sta civilizzando, cioè che tutto si sta raffreddando. Le nazioni bronzee della zona torrida stanno iniziando ad aprire le loro mani timorose e diffidenti agli ornamenti della nostra industria. Tigri e leoni stanno diventando mansueti e arrivano dai deserti per servire da divertimento ai popoli del nord. Animali che non erano mai riusciti ad acclimatarsi nel nostro paese se ne sono andati senza morire per vivere nella domesticità, il loro sole spento, e dimenticare l'amaro e fiero dolore che li ha uccisi nella servitù. E perché ovunque il sangue si impoverisce e si congela man mano che l'istinto cresce e si sviluppa. L'anima si esalta e lascia la terra insufficiente ai suoi bisogni per rubare il fuoco di Prometeo dal cielo, ma persa in mezzo alle tenebre, si ferma nel suo volo e cade. Perché Dio, vedendo la sua audacia, stende la mano e porta via il sole. 7. Solitudine. Bene, Trenmore, il bambino mi ha obbedito. Mi ha lasciato sola nella valle deserta. Sto bene qui. La stagione è mite. Un casolare abbandonato funge da rifugio. Ogni mattina i pastori della valle vicina mi portano latte di capra e pane azimo, cotto all'aria aperta, con gli alberi morti della foresta. Un letto abbondante di erica secca, un cappotto spesso per la notte e qualche vestito sono sufficienti per resistere 1 o 2 settimane senza soffrire troppo per la vita materiale. Le prime ore trascorse così mi sono sembrate le più belle della mia vita. Posso dirti tutto, vero Trenmore? Quando Stenio se ne andò, sentii il peso della vita alleggerirsi sulle mie spalle. All'inizio il suo dolore nel lasciarmi, la sua riluttanza a lasciarmi in questo deserto, la sua paura, la sua sottomissione, le sue lacrime senza rimprovero e le sue carezze senza amarezza mi avevano fatto pentire della mia risoluzione. Quando era in fondo al primo pendio di Monte Verdor, volevo richiamarlo perché la sua camminata sconsolata mi straziava. E poi lo amo, lo sai che lo amo dal profondo del cuore. Il santo, puro, vero affetto che è morto in me, lo sai, Trenmore. Anche per te, anche te ti amo. Non ti amo come lui. Non ho per te quella timorosa, tenera, quasi infantile sollecitudine che ho per lui quando soffre. Non soffri mai tu. Non hai bisogno di essere amato così. Gli ho risposto con un cenno, ma era già troppo lontano. Pensava che gli stessi dando l'ultimo saluto. Lui rispose e continuò per la sua strada. Allora piansi, perché sentivo il male che gli avevo fatto mandandolo via, e pregai, per addolcirlo, di mandargli come al solito la santa poesia che rende prezioso il dolore e benefiche le lacrime. Poi lo contemplai a lungo, come un punto che non si perdeva nella profondità della valle. A volte nascosto da un poggio, a volte da un gruppo di alberi, per poi riapparire sopra una cataratta o sul fianco di un burrone. E vedendolo partire, così lento e malinconico, ho smesso di sentirne la mancanza perché già pensavo: ammira la schiuma dei torrenti e il verde dei monti, già invoca Dio, già mi colloca tra le sue nuvole, già accorda la lira del suo genio, già dà al suo dolore una forma che ne amplia lo sviluppo, mentre ne diminuisce l'intensità. Perché vuoi che io abbia paura del destino di Stenio? Avermene fatto una colpa, averne previsto l'orrore è un rigore ingiusto. Stenio è molto meno infelice di quanto dice, di quanto pensa. Oh, come scambierei volentieri la mia esistenza con la sua. Quante ricchezze ci sono in lui che non sono più in me. Quanto è giovane, quanto è grande, quanto crede nella vita. Quando si lamenta maggiormente di me è il momento in cui è più felice, perché mi considera una mostruosa eccezione. Più respinge e combatte i miei sentimenti, più crede nei suoi, più si aggrappa ad essi, più ha fiducia in se stesso. Oh, credere in se stessi, la sublime, imbecille fatuità della giovinezza, organizzare il proprio futuro e sognare il destino che si vuole. Lanciare uno sguardo di superbo disprezzo ai viaggiatori stanchi e pigri che ingombrano la strada e credere che si correrà verso la meta, forti e rapidi come il pensiero, senza mai perdere il fiato, senza mai cadere dal sentiero. Conoscere così poco da prendere il desiderio per volontà. Oh felicità, e insolente stupidità, oh spacconeria, ingenuità. Eravamo così, Trenmore. Non eravamo molto felici. Quando divenne impercettibile in lontananza, cercai la mia sofferenza e non la trovai più. Mi sentii sollevata come da un rimorso. Mi sdraiai sul prato e dormii come una prigioniera a cui vengono tolte le catene che per il primo uso della sua libertà sceglie il riposo. E poi sono ridiscesa dal Monte Verdor verso il versante desertico e ho messo la cima della montagna tra me e Stenio, tra l'uomo e la solitudine, tra la passione e la fantasticheria. Tutto quello che mi hai detto sulla calma incantevole che ti si rivela dopo le tempeste della tua vita l'ho provato quando mi sono trovata finalmente sola, assolutamente sola tra la terra e il cielo. Non una figura umana in questa immensità, non un essere vivente nell'aria o sulle montagne. Sembrava che questa solitudine fosse stata resa austera e bella per accogliermi. Non c'era un alito di vento, né il volo di un uccello nello spazio. Allora avevo paura del movimento che veniva da me. Ogni filo d'erba che salutavo mentre camminavo sembrava soffrire e lamentarsi. Stavo disturbando la calma, insultando il silenzio. Mi fermai, incrociai le braccia sul petto e trattenni il respiro. Oh, se la morte fosse così, Trenor, se fosse solo riposo, contemplazione, calma, silenzio. Se tutte le facoltà che abbiamo per godere e soffrire fossero paralizzate, se ci rimanesse solo una debole coscienza, un'impercettibile intuizione del nostro nulla, se potessimo sederci così, nell'aria immobile, davanti a un paesaggio vuoto e tetro, sapendo che abbiamo sofferto, che non soffriremo più e che riposiamo lì, sotto la protezione della vita infinita. Ma come sarà l'altra vita? Non avevo ancora trovato una forma in cui poterla desiderare. Fino ad allora, in qualsiasi veste mi fosse apparsa, mi aveva spaventata o compatita, perché non ho smesso un giorno di desiderarla. Che cos'è questo desiderio sconosciuto e ardente che non ha un oggetto concepito e che divora il cuore come una passione? Il cuore dell'uomo è un abisso di sofferenza, la cui profondità non è mai stata sondata e mai lo sarà. Sono rimasta lì finché il sole è stato sopra l'orizzonte e per tutto il tempo sono stata bene, ma quando il cielo è diventato solo un riflesso, un'inquietudine crescente si è diffusa nella natura. Il vento si è alzato, le stelle sembravano lottare contro le nuvole inquiete, i rapaci levavano nel cielo le loro forti grida e il loro potente volo. Cercavano un riparo per la notte, erano tormentati dal bisogno, dalla paura, sembravano schiavi della loro necessità, della debolezza e dell'abitudine, come se fossero esseri umani. Questa emozione per l'avvicinarsi della notte si rivelava nelle cose più piccole. Le farfalle azzurre che dormono al sole nell'erba alta si sono alzate a turbine per andare a seppellirsi in quei misteriosi rifugi dove non si trovano mai. La rana verde di palude e il grillo dalle ali metalliche cominciarono a seminare l'aria con note tristi e incomplete che producevano una sorta di irritazione sui miei nervi. Le piante stesse sembravano rabbrividire all'aria umida della sera. Chiudono le foglie, stringono le antere, ritirano i petali in fondo ai calici. Altre piante, innamorate al momento della brezza che porta i loro messaggi e i loro abbracci, si aprono civettuole palpitanti, calde, al tatto, come segni umani. Tutte le piante sono riuscite a dormire o ad amare, e anche gli animali. Mi sono sentita di nuovo sola. Quando tutto sembrava inanimato, potevo identificarmi con il deserto e diventare parte di esso come una pietra o un cespuglio in più. Ma quando ho visto che tutto tornava a vivere, che tutto era preoccupato per il domani e manifestava sentimenti di desiderio o preoccupazione per la notte, mi sono indignata per non avere una volontà, un bisogno, una paura mia. La luna sorgeva, era bella. L'erba delle colline aveva riflessi trasparenti come lo smeraldo, ma cosa importava a me la luna e la sua magia notturna? Non mi aspettavo nulla da un'ora in più o in meno del suo corso, nessun rimpianto, nessuna speranza legata per me alla fuga di quelle ore che interessavano tutto il creato. Per me, niente nel deserto, niente tra gli esseri umani, niente nella notte, niente nella vita. Mi ritirai nella mia cabina, nella mia capanna, e cercai di dormire, più per noia che per necessità. E il sonno è una cosa dolce e bella per i bambini. che sognano solo le fate o il paradiso, per gli uccellini che si stringono fragili e caldi sotto il piumone della mamma, ma per noi, che siamo arrivati a un'estensione esagerata delle nostre facoltà, il sonno ha perso la sua casta voluttà e il suo languore profondo. La vita, così com'è, ci toglie ciò che di più prezioso c'è nella notte, l'oblio dei giorni. Oh, non parlo di te, Tremor, che secondo la parola sacra vivi nel mondo come se non ci fossi, ma io, nel corso della mia vita sregolata e senza freni, ho fatto come gli altri, ho abbandonato le esigenze imperative del corpo al superbo disprezzo dell'anima, ho trascurato tutti i doni dell'esistenza, tutti i benefici della natura, ho ingannato la fame con cibi gustosi ed eccitanti, ho ingannato il sonno con un'agitazione senza scopo, ho un lavoro senza profitto. A volte, alla luce della lampada, cercavo nei libri la chiave dei grandi enigmi della vita umana. A volte, gettata nel vortice del secolo, attraversando la folla con il cuore spento e guardando cupamente tutti i suoi elementi di disgusto e di sazietà, cercavo di cogliere nell'aria profumata delle feste notturne un suono, un respiro che mi restituisse un'emozione. Altre volte, vagando nella campagna silenziosa e fredda, interrogavo le stelle immerse nella nebbia e misuravo, in un'estasi dolorosa, la distanza incolmabile dalla terra al cielo.